10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno. Tu sentirmi dire che non hai voglia di uscire. Al giorno, polvere sole, alzato intorno, 20 chilometri al giorno, per sentirti dire che non mi vuoi più vedere, avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di un gatto, un mazzo di fiore di prato, mazzo tondato scremato. Chilometri al giorno, breva l'andata, lungo ritorno, 20 chilometri al giorno, tornare a casa e non pensare che te. Sare che te